Questo è un progetto che racchiude un connubio meraviglioso che è sport e solidarietà. Sport perché le figurine subito alla mente nell'immaginario collettivo vengono in mente appunto le figurine Panini. Io da calciatrice appassionata e tifosa ho fatto raccolta di figurine quando ero piccola ed è una componente emozionale che è importante per lo sport, è importante anche per le cittadine e i cittadini bolognesi e di tutto il nostro paese ovviamente. Bologna perché Bologna ha sempre questo spirito anche di condivisione delle buone pratiche. Quando le buone pratiche, in questo caso da divertimento delle figurine, si passa a un aiuto concreto per la solidarietà con le figurine solidali, chiaramente abbiamo chiuso il cerchio e questo è molto importante anche in un momento difficile come questo. Le figurine solidali lo dico perché ne ho seguite tante, ne ho presentate tante insieme al presidente di Figurine Forever, Emiliano Nanni. Sono figurine molto belle, disegnate davvero bene o con delle foto meravigliose di persone famose, non necessariamente sportivi, che hanno dato qualcosa, alcune volte a Bologna, altre volte appunto all'Italia, e che lasciano un ricordo bello. Solidali perché tutto il ricavato di quelle figurine, escluse le spese, va a raccolte fondi, a iniziative benefiche di solidarietà, e questo è sicuramente il valore aggiunto di questa iniziativa.